questa ragazza che è inumata a Novi, di cui non conosciamo né la provenienza né le generalità, neanche l'età, però credo che sicuramente l'avrà stabilito un medico legale quando sono state tirate fuori dall'acqua. Pare che avesse detto che era una ragazza di 14 anni, poco più di una bambina. Sentieri. Percorsi tematici per esplorare l'universo multiculturale della Campania. In definitiva, stavamo davanti alla televisione, io e mia moglie, non ricordo quale trasmissione stavamo vedendo all'epoca di questo lubrifaggio. Si parlava appunto di Salerno, mi pare che fu intervistato, non lo so, il questore, il prefetto, adesso non ricordo, qualcuno di questi, in cui diceva che quelle salme purtroppo non potevano essere sotterrate tutte nel cimitero di Salerno, per cui se ne sarebbero fatti diciamo carico anche dei comuni della provincia. E capimmo che era interessato pure Novi Velia. Poi la cosa ci sfuggì, ma dopo qualche giorno venimmo a conoscenza che questa ragazza era stata sotterrata a Novi. Credo ne avesse parlato il prete in chiesa. Il cuore di mamma, e noi abbiamo tre figlie femmine, tre ragazze sicuramente più avanti in età di quella ragazza, ci commuovemmo, per cui mia moglie decise così all'istante di volersi informare per darle una sepoltura dignitosa. Ovviamente mi trovò consenziente, per cui ricordo che presi il telefono e chiamai il prete, gli chiesi di questa cosa, mi confermò che era vera, e allora lo pregai di, perché Novi in quel momento teneva il commissario prefettizio, non c'era il sindaco, io non conoscevo questo commissario prefettizio, lo pregai di informarsi se era possibile, pur lasciandola là dove hanno deciso di inumare la bara, di appunto metterci una lapide, un portafiori, e che ce ne saremmo fatti carico noi come famiglia. Il prete accettò e si congratulò con noi per questa cosa, e allora con lui, ma soprattutto lui, decise di scrivere quella frase insieme per telefono, concordammo di metterci quell'ancora, cioè come se fosse approdata da qualche parte, anche se morta. E, trattandosi appunto di una ragazza e avendo noi, io e mia moglie, tre figlie, decidemmo che invece di mettere la solita scritta famiglia Pinto, decidemmo di mettere il nome di queste tre ragazze per anche per un loro ricordo futuro, quando io e la mamma non ci saremo. Loro lo sanno perché furono informate, applaudirono pure loro l'idea, furono concordi anche nel mettere il loro nome, e è venuta fuori così la cosa. È inutile dire che ogni volta che andiamo al cimitero, io e mia moglie, la cappella della mia famiglia, perché trovo un poco più avanti alle spalle della chiesa, e quindi noi passiamo praticamente davanti questa lapide, la prima fermata è là. quello che ricordo è che comunque queste bare arrivarono insieme a una nave che portava anche dei richiedenti asilo, degli immigrati. Arrivò al porto e, a differenza di oggi, che è una giornata splendida, era ormai autunno inoltrato, e quindi noi, come associazione che si occupava di banca abiti, fummo coinvolti per portare questo tipo di supporto, cioè coperte, giubbotti, abiti asciutti, perché a persone erano, sono andato a rivedere un po' gli articoli, credo fossero 400 circa le persone trasportate su quella stessa nave spagnola, e per portare tutto quello che era possibile portare. Quindi andavamo, facevamo questa spola tra banca abiti che stava a Parco Pinocchio e il porto, e ci fu un attimo, diciamo, di gelo quando iniziarono a sbarcare queste ragazze. È stata una sensazione agghiacciante, perché ho avuto questa notizia raccapricciante, orribile, terribile. Dopodiché mi sono recato anche all'obitorio dove erano state raccolte queste povere spoglie e ho avuto la disgrazia di poterle vedere. Erano dei corpi gracilissimi, così delicati, messi, accantonati in qualche modo, perché erano tantissimi contemporaneamente, naturalmente con decoro e con attenzione, ma comunque c'era questa sovrabbondanza di corpi esami che destano una grande sofferenza. Talune avevano ancora gli occhi aperti e c'era questa sensazione, questi volti e questi corpi scheletriti che in qualche modo guardavano. È stata una cosa che francamente non avrei mai voluto vedere. Erano giovanissime, e ho sempre pensato che queste povere ragazze in tutta la loro vita erano ragazze giovanissime, 14-20 anni, insomma, giù di lì. In tutta la loro vita non hanno mai vissuto un giorno di sole, non hanno mai vissuto una cosa. Sono passati dalla fame, dalla disperazione, alla tortura, al viaggio senza speranza e alla morte. Questo nell'arco della loro brevissima vita. Uno o due erano incinte. Devo dire, c'è stato un atteggiamento corale molto, molto sentito e molto unanime. La città si è raccolta intorno a questo. Queste povere ragazze che purtroppo per grandissima parte, se non totalmente, sono senza nome, sono dei numeri. Noi abbiamo fatto mettere nelle bare un qualche elemento di riconoscimento, perché ormai fosse qualcuno che reclamasse il corpo, possiamo risalire al nome di queste ragazze, queste ancora più agghiacciate. Però in qualche modo, diciamo, la comunità si è stretta intorno a queste povere figlie e le ha accompagnate con amore. A Salerno noi abbiamo dedicato a queste giovani donne un monumento dell'artista Pietro Vissa, un albero metallico che lui ha voluto regalare alla città all'ingresso del cimitero, ed una scultura nel parco 8 marzo. Io ho fatto a Salerno un giardino 8 marzo dedicato alle donne, e anche lì c'è un ricordo di questa immane tragedia del mare, molto semplice, sobrio, fatto dai ragazzi. Mi sento davvero male, ho perso mia moglie. E ora come ora niente più è come prima. Prego Dio affinché mia moglie adesso si trovi in un posto migliore, in un posto dove non ci sono sofferenze. She had an hope and now she's dead. Sì, aveva una speranza e adesso è morta, purtroppo. Avevate figli? No, lei era incinta, sarebbe stato il nostro primo figlio. Non riesce neppure a versare lacrime, Sule, in questa fredda mattinata salernitana. Sul suo volto, come su quello di Hassan, ci ha ancora scolpito il terrore per ciò che entrambi hanno vissuto. Nel loro cuore il dolore per la morte della moglie di Sule, incinta di 4 mesi, Marian, e della sorella di Hassan, Osato. Entrambe giovanissime, entrambe su quel maledetto gommone che ha ceduto al centro, al largo delle coste libiche, 2 settimane fa. Su quel gommone c'erano anche loro, Sule e Hassan. Seriously, I feel bad because I never experienced this kind of... Mi sento davvero male, non vedrò più mia sorella che riposa in pace. Eri sulla imbarcazione con tua sorella, sul mare, insieme. Eravamo insieme, sì. Cosa ricordi di quel momento? Quel tragico momento. La morte è donna sulla Cantabria, la nave che sbarcherà a Salerno, 26 bare di altrettanti giovani, madri, che hanno perso la vita in una delle tante tragedie del mare che accompagna la storia di chi tenta di fuggire da guerre, fame e disperazione. Insieme a loro c'è chi ce l'ha fatta, circa 400 persone, 259 uomini. 26 donne nigeriane, annegate insieme alle loro speranze, di cui restano solo questi sacchi, sbarcati a Salerno. Le 26 salme delle giovanissime ragazze sbarcate ieri dalla nave spagnola a Cantabria si trovano ancora nella sala mortuaria del cimitero di Salerno, in attesa dei tempi necessari per l'effettuazione dell'autopsia. Sulla nave spagnola i cadaveri erano stati congelati per consentirne la preservazione e la possibilità di effettuare l'autopsia. La procura di Salerno indaga anche per omicidio plurimo riguardo alla strage delle 26 giovani donne nigeriane i cui cadaveri sono arrivati nel porto. L'indagine ha permesso di ricostruire il viaggio dei migranti sbarcati a Salerno ed anche la tragedia che si è consumata per le 26 donne, tutte morte, come stabilito dall'autopsia, per asfissia ed annegamento. Solo per una di esse la morte è stata determinata da uno shock emorragico dovuto a rottura del fegato provocata dall'impatto con una superficie solida al momento della caduta in acqua. Su nessuna delle donne sono stati riscontrati segni di violenza. Lo storytelling, definiamolo con una parola di uso in questi momenti, si è modificato sostanzialmente, cioè si sono avuti atteggiamenti da un lato spicciativi, dall'altro cinici, dall'altro ancora intolleranti, che sono state, hanno attraversato la mente delle persone, una cattiva politica che ha distrutto un sentimento umanitario che, parlando alla pancia delle persone, non alla testa, ha diffuso un malanimo, un atteggiamento non soccorrevole né favorevole ai problemi della contemporaneità. Io dico, se c'è un migrante in mare va salvato, senza se e senza ma, saranno 100, saranno 1000, non so quanti, però vanno salvati. Poi si discute. Però bisogna parlare anche alla testa delle persone, perché questa immagine di questa invasione epocale, all'atto pratico, se si verifica, non c'è. Non c'è, neanche lontanamente, non siamo invasi proprio da nessuno. E quindi bisogna far funzionare la testa sicuramente, il cuore assolutamente sì, ma anche la testa, perché bisogna mettere rimedio ad una narrazione che ha devastato rapporti umani e civili. Con uno dei superstiti di un altro sbarco, noi chiedemmo, scusate, ma voi avete la consapevolezza che quando vi imbarcate rischiate la vita? Detto sì, noi sappiamo benissimo che al momento in cui ci imbarchiamo abbiamo il 50% di possibilità di sopravvivere, il 50% di possibilità di morire, ma se noi rimaniamo nei posti da dove siamo, il 100% la sicurezza che moriremo, quindi rischiamo la vita sapendo che sono tanti i naufraghi, tanti quelli che restano in mare, perché almeno abbiamo il 50% di possibilità di approdare a una nuova vita, a una vita più sicura, alla possibilità di salvare i nostri figli. Perché i naturalisti sono pazzi che si buttano a mare, non si rendono conto di quante persone muoiono, invece se ne rendono perfettamente conto. Ma è talmente disperata la situazione da cui partono che è accettato anche il rischio elevatissimo di morire in mare. Alla commozione per la morte di queste ragazzine poi non fa seguito un'accoglienza delle ragazzine, le donne in generale, senza distinzione di provenienza, che soffrono sul nostro territorio. Guarda, cioè più o meno cioè immagino che papà ti abbia raccontato come è andata la cosa, quindi la storia è quella, nel senso che è stata un'idea di mia madre, cioè loro, io ero ancora, cioè ero già a Parma, quindi non ero neanche giù quando loro hanno pensato questa cosa. Mamma l'ha detta a mio padre, poi ovviamente l'hanno comunicata anche a noi, cioè noi intendo me e mie sorelle, e tutte e tre siamo state d'accordo, e se, cioè, io particolarmente sono stata felicemente sorpresa e mi ha commosso come un po' anche te, perché comunque lavorando ogni giorno con delle donne migranti, perché cioè il mio era un cast femminile, quindi lavoravo solo con donne, cioè so tutta la sofferenza, cioè la conosco benissimo la sofferenza che c'è dietro ad un viaggio e alla decisione di partire, e quindi cioè, mi sono particolarmente emozionata e sono stata particolarmente sorpresa positivamente da questa decisione dei miei genitori, però comunque è stata una decisione tutta loro. Poi il fatto che ci siano i nostri nomi era perché comunque loro non volevano che venisse ricondotto ad una cosa della famiglia, cioè che prendesse un significato che non ha, nel senso che è semplicemente per dare una degna sepoltura ad una persona che ha sofferto tanto in vita e che non era giusto che rimanesse lì sottoterra senza neanche una lapide commemorativa, comunque senza neanche una vicinanza da parte della popolazione che in quel momento, cioè del territorio che la stava accogliendo, ecco. Cioè non si sa niente, si sa soltanto che era una ragazzina, e sì, è un modo per darle la dignità che le aspetta in quanto essere umano. Allora, perché le frasi di circostanza sono capaci tutti, invece iniziare a lavorare, a operare, poi bisogna vedere chi realmente ne ha queste intenzioni. Guarda, non lo so, nel senso che cioè probabilmente io vengo da un'educazione tale per cui, cioè, i miei genitori mi hanno sempre insegnato che tra dire e fare è sempre meglio fare, no? Cioè, piuttosto che star lì a guardare senza agire, è sempre meglio sporcarsi le mani in prima persona. Quindi, cioè, l'approccio che io ho alla vita è questo, cioè nel senso che non sto lì a lamentarmi, non sto lì a compatire, ma poi cerco di far qualcosa effettivamente per cambiare la situazione o comunque per risolvere un determinato problema o per dare delle determinate risposte. Effettivamente, cioè, probabilmente è un approccio che non hanno tutti, nel senso che a livello globale, cioè si tende un po' a sedersi e a aspettare sempre che siano gli altri che facciano le cose e che risolvino i problemi per noi, però cioè lì è proprio una questione, secondo me, di educazione culturale, di approccio alla vita. Nel caso questo non fosse avvenuto e non ce ne fossimo interessati neanche noi della cosa, io credo che comunque sarebbe rimasta inumata lì, magari con la lapide in plastica, che col tempo, l'intemperie, il freddo, prima o poi si sarebbe pure distrutta. Invece così, credo che almeno per qualche generazione, soprattutto i giovani che andranno in futuro nel cimitero, si fermeranno, butteranno un attimo lo sguardo su quella lapide, possa essere un momento, oltre che di raccoglimento proprio intimo, magari anche di preghiera per chi crede, ma che possa farli riflettere su quelle che sono le guerre, le carestie, i soprusi, le violenze, tutto quanto in relazione a queste cose. Tsonge ye na basi kuti bi mafo emi afo amade idia go wanta mi wo ke wu foriba ke twa ke seme ami fon ke sogoro afo nyangare ami fon ke sogoro afo nyangare. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.